E con noi Cristiana Minasi, che con Giuseppe Carullo sarà in scena a Roma, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, il 19 e 20 maggio con Delirio Bizzarro. Cristiana, ben trovata. Ciao a voi. Sì, Lo raccontiamo? in realtà è uno dei nostri soliti spettacoli lì dove c'è poco da raccontare e molto da fare. Ecco, è una forma di condivisione collettiva e quindi ci ritroviamo all'interno di un centro di salute mentale il cui nome, in maniera appunto anche simpatica e un po' kafkiana, è il Castello. E ci sono due personaggi che si vanno scoprendo, appunto, e da parte del pubblico e anche loro personalmente, proprio in scena, lì, in quell'ic et nunc, lì dove si scoprono due solitudini, sono Mimmino e Sofia. Sofia, sembrerebbe essere un'operatrice del centro, però chiaramente poi cammin facendo si riscopre quanto effettivamente lei stessa abbia qualche sofferenza e non si capisca bene quale sia la sua identità, per poi scoprirla in conclusione. Mimmino è il classico cosiddetto pazzo per attribuzione e quindi è un personaggio assai simpatico con tutta una serie di caratteristiche legate al fumo, quindi appunto a una moltitudine di sigarette, poi al caffè, a tutta una serie di necessità che lo rendono appunto vivo, presente e comunque occupato, ma ha una grande realizzazione che è quella di fare la recita, all'interno della quale poi scopriremo esserci una profonda verità, perché si parla di sfacelo e in realtà forse si tratta dello sfacelo della realtà contemporanea e quindi appunto che tutti riguarda e che sottintende le carenze di un sistema che è quello sociale, che non è stato in grado di accettare e di confrontarsi con quello che è il conflitto. Per il quale poi appunto ci ritroviamo tutti estremamente soli. Come nasce questo nuovo spettacolo? Lo spettacolo in realtà proprio nuovo non è, nel senso che è nato nel 2016 in forza di una serie di confronti proprio reali con pazienti di strutture psichiatriche, per cui ci siamo ritrovati in principio a fare un piccolo laboratorio su Stiduzzo in Cantao Ristiddi, che è una storia a cui Giuseppe è particolarmente legato, e da qui chiaramente è nato tutto un percorso anche con loro, proprio perché si doveva fare una recita con loro, col centro diurno di salute mentale, però questa recita poi si è tradotta in una vita che è la loro vita lì nel centro, e quindi tutti i loro dialoghi e tutto quello che circuitava intorno a loro, compresi appunto i cosiddetti operatori, i cosiddetti psichiatri, e da qui appunto quello che poi riguarda anche lo spettacolo, perché si fa riferimento continuamente a uno psichiatra che non arriverà mai, che è il dottor Allone, si fa riferimento a tutta una serie di giochi identitari della stessa Sofia, e quindi è nato proprio da questi dialoghi che ci hanno consentito di raccogliere dei quadri di vita. E quindi poi l'esperienza della cura del male mentale si è trasformata inevitabilmente in un'analisi di quella che è la condizione attuale dei centri diurni di salute mentale, soprattutto al sud, dove in realtà probabilmente la legge Basaglia, il sogno e l'utopia di questa legge 180 in realtà si è tradotta in un isolamento, in realtà non certo peggiore, però in un isolamento di queste realtà che si ritrovano comunque alle periferie della città e dove non c'è alcun tipo di reale integrazione, ma non tanto dei malati mentali con i cosiddetti normali, ma dei normali con i malati che possono insegnare tanto. Ecco, questa era la grande utopia appunto basagliana. Sì. Cristiana, che tipo di esperienza è stata questo incontro? Ha un'esperienza sicuramente straordinaria, proprio perché in realtà ci siamo accorti di quanto fosse interessante il ribaltamento di tutto, nel senso che noi siamo arrivati lì a modo nostro, sempre con grande umiltà, con grande, come dire, volontà di ascolto per lavorare con loro, ma in realtà sono stati loro che ascoltavano noi e tutto il circostante, e quindi tutto si è ribaltato e quella cosiddetta linea di confine si è tradotta in una sorta di, come dire, sfumatura veramente labilissima tra la normalità e la follia, ma era realmente tale, cioè queste sono parole, però poi quando ci si ritrova lì in quei contesti ci si rende conto che veramente minima è la distanza che separa, gli uni dagli altri, che l'unica forza sta nel vederci tutti evidentemente umani. Senti, per chi ci ascolta, raccontiamo anche un po' l'esperienza della vostra compagnia. Sì, noi siamo appunto in due al momento. L'obiettivo è stato quello di partire con due passi sono, ma come dire, pensando di non arrivare lì dove poi siamo arrivati, perché due passi sono ha vinto Scenario per Ustica, poi ha vinto in box, poi il premio Pomodoro. Questo ha fatto sì che noi avessimo l'opportunità, al di là delle nostre stesse aspettative, di girare l'Italia in lungo e in largo e di avere l'occasione di confrontarci con altri temi e con altre prospettive poetiche e filosofiche, da cui la trilogia sul limite, che è stata completata, oltre che appunto da Due passi sono, da Tempio, da Conferenza tragica effimera, e lì appunto si è tenuto in considerazione il limite come risorsa drammaturgico-creativa per arrivare alla considerazione dei temi appunto dell'amore, della giustizia e dell'arte. Questi erano i tre temi che collegavano questi tre spettacoli, però su un'indagine più che altro connessa ai testi di Platone, e poi abbiamo continuato con De Revolutionibus sulla miseria del genere umano, che è una rielaborazione di due operette morali di Leopardi, e poi appunto siamo arrivati a Delirio Bizzarro, che ha consentito a noi di entrare in relazione, in una fortunatissima relazione con la corte ospitale, perché abbiamo vinto il premio Forever Young, che è un premio appunto di produzione e di circuitazione. Da qui la nostra nuova prossima produzione, sempre con la corte ospitale, che sarà appunto una rielaborazione dell'Isola degli Schiavi di Malibu, il cui titolo già si sa in anteprima, insomma, è Bastasi, e lavoreremo appunto con un contista siciliano e probabilmente forse con altri due attori. Ci lasci anche tutti i riferimenti web per seguirvi? Certo, allora noi siamo Carullo Minasi, ci trovate su Facebook, ci trovate anche su Instagram, e chiaramente c'è il sito che è www.carulloMinasi.wordpress.com, e lì trovate tutte le nostre appunto tournée, tutti i nostri prossimi giri, oltre che appunto al Teatro Biblioteca Quarticcioli, in forza anche dell'anniversario della legge Basaglia, che è stato il 13 maggio, saremo anche al Funaro di Pistoia il 20 giugno, quindi vi Benissimo. aspettiamo in tanti, mi raccomando. Allora, ripetiamo l'appuntamento al Teatro Biblioteca Quarticciolo a Roma, 19 e 20 maggio, con Delirio Bizzarro, Cristiana Minasi e Giuseppe Carullo. Cristiana, è stato un piacere e un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, affettuosamente.